giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Politica a vertice di maggioranza nel pomeriggio di oggi. Il presidente della regione Fedriga ha convocato i rappresentanti dei partiti della sua coalizione dopo gli attriti, soprattutto fra Lega e Fratelli d'Italia, causati sui temi della sanità e del terzo mandato. Nonostante le sentenze della Corte Costituzionale, mancano leggi regionali e tempi certi per l'accesso al suicidio assistito. La denuncia ieri a Trieste di Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Citato il caso di Martina Oppelli, in attesa da 2 anni di una verifica negata dal Tribunale. E ieri ricorrevano i 35 anni dalla rimozione dell'omosessualità dalla lista delle malattie mentali da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Friuli Venezia Giulia centinaia di persone hanno manifestato contro l'omo-lesbo-bitransfobia con un corteo a Trieste denunciando l'aumento dei messaggi d'odio. A Gradisca ieri circa 200 persone hanno manifestato per chiedere la chiusura del centro per i rimpatri, sostenuti anche dal sindaco e da diverse forze politiche e associazioni. Trieste oggi, ultima giornata di Link, il media festival che svela il mondo e dietro le quinte delle notizie. Fra i tanti nomi di oggi, Beppe Severgnini, Dario Di Vico e Margherita Granbassi. Lo sport, il calcio, la Triestina è salva. Agli alabardati bastava un pareggio contro il Caldiero Terme per mantenere la categoria e ieri sera al Rocco, dove la Triestina non aveva mai visto da tanto tempo tanti tifosi, è finita 0-0. Restano in sospeso le questioni societarie. Basket in Serie A1, Trieste si schianta a Brescia ieri sera. Gara 1 di playoff ha visto i lombardi, padroni di casa, dominare la partita ben più di quanto dica il punteggio, fermatosi sull'89-77. È domenica 18 maggio 2025, sono le 8:32 minuti e 15 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è il tempo, nuvolosità variabile sulla regione. Ecco le temperature alle 7. A Trieste 14 gradi, a Gorizia 12, a Udine 13, a Pordenone 13,5. A Tolmezzo 9, Forni di sopra 5 gradi, Tarvisio 6, Sappada 3. Sullo Zoncolan 2 gradi, sul Lussari 2,5, a Lignano 17, a Grado 15. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: c'è una prevalenza variabile con maggiori schiarite in mattinata e verso la costa. Probabili rovesci temporali sparsi nel pomeriggio sulla zona montana. Verso sera i temporali si estenderanno alla pianura e alla fascia costiera, dove le precipitazioni potranno essere un po' più forti. Sulla costa occidentale nel pomeriggio sera soffierà scirocco moderato. In apertura una notizia di cronaca: un violento incendio questa notte divampato a Fagagna in via Riolo, in un'abitazione di 2 piani dotata anche di una legnaia. Il fuoco è riuscito a raggiungere il tetto dell'edificio. L'unico residente dell'immobile non è stato né ferito né intossicato dal fumo. Sul posto sono intervenuti poco dopo le 3 i vigili del fuoco di Udine e del distaccamento volontario di San Daniele del Friuli, che hanno completato la messa in sicurezza attorno alle 6:30. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri. Passiamo alla politica, con le tensioni ancora in essere nella maggioranza che sostiene Massimiliano Fedriga in consiglio regionale. I segretari dei partiti hanno in programma un vertice con il presidente per il primo pomeriggio di oggi, un confronto per via telematica che dovrebbe servire a chiarire una situazione che si è complicata dopo le critiche arrivate dal ministro Ciriani sulla gestione del trasloco dell'ospedale di Pordenone. Tensioni dunque innescate dai temi della sanità, ma che si allargano inevitabilmente al tema del terzo mandato per il presidente della regione, sul quale la Lega è favorevole e Fratelli d'Italia e Forza Italia sono contrari. Temi che sono stati al centro anche di un direttivo di Fratelli d'Italia che si è svolto ieri. Fine vita, tema delicato e molto discusso, se ne è parlato ieri nell'ambito di un incontro sulle cure palliative a Trieste. La segretaria dell'associazione Luca Coscioni ha ribadito la necessità di tempi certi per una legge regionale in materia. Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, è intervenuta al convegno dedicato alle cure palliative, durante il quale ha esposto le scelte che una persona in Italia può effettuare in materia di fine vita in base alla normativa vigente e alle sentenze della Corte Costituzionale. Durante l'evento ha rimarcato la mancanza di leggi regionali apposite. Nel momento in cui vi è una sentenza che impone degli obblighi al Servizio Sanitario Nazionale, quindi in sede regionale, quando arriva la richiesta alle aziende sanitarie di effettuare le dovute verifiche, bisogna fare chiarezza, quindi stabilire chi deve fare cosa e in quali tempi. C'è esigenza di avere tempi certi. In regione la proposta è stata respinta in consiglio regionale nel 2024. La Gallo, oltre alla mancanza dei tempi certi, denuncia anche la mancanza della perfetta conoscenza dei compiti che la commissione medica ha nel fare le verifiche. E del rispetto della giurisprudenza costituzionale, cosa che fino adesso qui a Trieste non è avvenuta, e mi riferisco al caso di Martino Pelli, dove attualmente stiamo attendendo una nuova verifica. Esito che la triestina affetta da sclerosi multipla secondaria progressiva attende da 2 anni. La sua richiesta è stata nuovamente respinta a marzo dal Tribunale di Trieste. Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Ieri, nella giornata internazionale contro l'omofobia, Trieste ha ospitato la manifestazione regionale, un corteo che ha attraversato le vie della città. Sono passati 35 anni dal 17 maggio del 1990, giornata in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha derubricato l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali, definendola una variante del comportamento umano. Anna Masutti, Agedo, Udine. Dei passi avanti sono stati fatti, ma molti ancora sono in divenire, sono sempre purtroppo troppo difficili ancora. Andrea Tamaro, Arcigay, Trieste. Un chiarissimo attacco intanto contro le persone trans e poi anche contro le famiglie omogenitoriali, quindi con genitori dello stesso genere. A piccoli passi, sempre più limitando i diritti. A comporre il corteo Libere Tutte, da Piazza Libertà a quello dell'Unità d'Italia, quasi 300 persone che hanno denunciato la crescente ondata reazionaria che diffonde messaggi d'odio e propaganda omo, lesbo, bi, transfobica. In tutto il mondo occidentale in realtà stiamo vedendo che tutta una serie di acquisizioni che davamo per consolidate purtroppo si stanno perdendo. Per questo motivo noi oggi siamo qui. Le denunce di maltrattamenti e violenze sono in aumento a Udine. La prossima settimana aprirà un centro antidiscriminazione. Sara Rosso, Arcigay, Udine. Proprio per raccogliere tutte queste segnalazioni e tutte queste vulnerabilità e per dare un supporto con orientamento psicologico. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Circa 200 persone hanno manifestato ieri pomeriggio a Gradisca per chiedere la chiusura del centro per i rimpatri, il CPR. Il corteo partito dal Parco Cittadino è arrivato nei pressi della struttura detentiva, dove il sindaco di Gradisca, Alessandro Pagotto, ha ribadito la richiesta di porre fine ai disagi provocati dalla struttura. Tra gli organizzatori dell'evento, Rifondazione Comunista, Movimento 5 Stelle, Possibile e Borghi per la Fortezza, a cui si sono uniti il PD, Alleanza Verdi e Sinistra, i gruppi anarchici e molte associazioni solidali con i migranti nella loro ricerca di libertà. Per la prima volta ha partecipato al corteo anche il sindacato di polizia SIULP col segretario provinciale Sammito, che da anni sollecita il Ministero degli Interni ad un ripensamento sulle modalità di gestione dei CPR che non riescono a garantire, dice il SIULP, la sicurezza né dei migranti né degli agenti. Di parere diametralmente opposto il sindacato SAP, che ritiene indispensabili centri per il rimpatrio dei migranti illegali o pericolosi. A Trieste, in Piazza Unità, ultima giornata di Link, il media festival che indaga il mondo dell'informazione e il mondo stesso. Ieri, anche grazie alla bella giornata, particolarmente affollati i vari incontri. In una Piazza Unità baciata dal sole, piena zeppa di turisti, conferma il suo boom di spettatori, Link Media Festival, rassegna di giornalismo. Link è una grandissima occasione per tutta la città per avvicinarsi a quelle che sono tematiche molto spesso anche calde. Turisti di dove? Romagnoli, veniamo da Rimini. Abbiamo visto degli autori molto interessanti e abbiamo detto fermiamoci. Partecipare in presenza cosa significa per lei? Conoscere gli autori, conoscere dal vivo i giornalisti, essere più sul pezzo, diciamo. È una crescita personale. Mi tengo informato attraverso la carta stampata, che io ancora adoro, e cerco di vivere il presente, come si dice. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E tra i numerosi appuntamenti di oggi di Link, nella sua ultima giornata, segnaliamo quello dell'editorialista del Corriere della Sera, Beppe Severnini, che parlerà di come invecchiare con ironia in Piazza Unità a mezzogiorno. Nel pomeriggio l'editorialista del Corriere della Sera, Dario Di Vico, condurrà l'incontro Industria, La Tempesta Perfetta, alle 16. Ultimo appuntamento, quello della giornalista sportiva e campionessa di scherma, Margherita Granbassi, alle 19. L'attore Lino Guanciale sarà protagonista di Napoleone, la morte di Dio, spettacolo scritto e diretto da Davide Sacco. Sul palco una riflessione sulla perdita che parte dalla figura di Napoleone, dal suo funerale, partendo dal saggio di Victor Hugo, testimone della tumulazione di Bonaparte avvenuta 20 anni dopo la sua morte. Lo spettacolo costruisce un percorso sulla morte degli eroi, delle divinità, dei padri. In scena Guanciale interpreta un figlio che ha perso il padre, forse Napoleone, forse un dio, forse semplicemente un uomo. A Trieste, al Politeama Rossetti, in sala generali alle 16. E al termine dello spettacolo, Guanciale e Sacco saranno protagonisti della chiusura della 10ª edizione della rassegna Trieste Book Fest, raccontando la magia della parola che sul palco diventa gesto e voce attraverso il racconto della loro ultima fatica teatrale. A Trieste, nella sala teatro Piccola Fenice, in via San Francesco, alle 18. Giornata di chiusura per la settimana della cultura friulana che tra i numerosi eventi prevede la festa di primavera a Torreano. Altro appuntamento, l'escursione a Mogessa con ritrovo al municipio di Moggio Udinese alle 9, conclusa poi dalla lettura scenica Mestri di Mont a Moggio di Sotto al centro polifunzionale alle 18. Infine la conferenza Scene di vita in montagna tra 600 e 800 presenterà gli aspetti demografici, economici e sociali della quotidianità friulana del passato a Tramonti di Sopra nella sala polifunzionale alle 17. In occasione della festa della tradizionale camicia ricamata ucraina Vishivanka, un simbolo identitario dello scorso giovedì, oggi si terrà un flash mob a Udine al piazzale del Castello alle 11. Quest'anno la festa è stata dedicata all'eredità culturale dei territori ora occupati dai russi. Siamo allo sport, il calcio in Serie A. Oggi a Torino la partita Juventus-Udinese, fischio d'inizio alle 20:45. In Serie C la Triestina non retrocede, le bastava uno 0-0 e così è finita ieri sera a Rocco. La Triestina è salva e rimane in Serie C. Basta uno 0-0 con i brividi a Rocco contro il modestissimo Caldiero Terme, stesso risultato dell'andata, per mantenere la categoria, sempre che le questioni societarie vengano risolte. Partita tattica e noiosa almeno nel primo tempo. Nella ripresa però il Caldiero è costretto a provarci e il match si sblocca. Vertainen appena entrato va vicino al gol al 61esimo e per 5 minuti la rete che chiuderebbe i conti sembra vicina per la Triestina. Occasioni per Olivieri e Cortinovis. Però è Ross a salvare la porta alla bardata 2 minuti più tardi su tiro di Gattoni. La squadra di Tesser spreca, soprattutto con Ionizza al 78esimo, e allora è costretta a soffrire. Bianconi chiude 2 volte su Scappini e Caccamo di testa sfiora la beffa sia di testa su corner che a recupero appena iniziato con la difesa della Triestina infilata. Sequela di angoli per il Caldiero Terme che però si sbilancia e lascia Olivieri libero di tentare la fortuna da 40 metri. Il pallone non entra ma è comunque tardi, finisce 0-0 e Rocco può esultare per una salvezza sofferta che però senza i guai societari sarebbe arrivata da mesi. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora il basket. È finita male per la Pallacanestro Trieste ieri sera a Brescia, la gara 1 dei play-off. Giuliani sconfitti per 77-89. Domani la gara 2, sempre a Brescia. Niente da fare, Trieste si schianta a Brescia in gara 1 di playoff in una partita che i padroni di casa dominano più di quanto dica il punteggio. Biancorossi scelgono incomprensibilmente di lasciare in tribuna McDermott preferendogli Kelly, il nuovo lungo, mossa che in teoria dovrebbe dare vantaggi sul piano della taglia ma che costringe a giocare con quintetti improvvisati. Nel primo tempo Trieste regge proprio sotto canestro in attacco ma è tradita dagli esterni e dalle palle perse e soprattutto dilaniata da Bilan. Il centro croato è un vero rebus tanto per Kelly quanto per Johnson e chiude il secondo periodo da protagonista assoluto con canestri in serie, 16 punti e 4 assist nei primi 20 minuti e al riposo si va con Brescia sopra 52-40. A inizio riprese i biancorossi si rifanno sotto con le triple di Jutov che li riportano temporaneamente a meno 5, ma è ancora Bilan a rimettere le cose a posto. Valentine non al meglio, perde un pallone sanguinoso che regala la schiacciata a Burnell che dà la svolta decisiva alla partita. Christian va sotto di 20 e decide di sperimentare, le mosse non funzionano e nel quarto periodo i padroni di casa controllano facilmente. Finale 89-77, 25 punti per Bilan, mentre tra i biancorossi il miglior marcatore è il volenteroso Johnson, ma pesano le 17 palle perse, primo aspetto da migliorare in vista di gara 2, sempre a Brescia lunedì. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora basket nei playoff di A2, dopo 2 vittorie in casa, la sconfitta di venerdì sera contro Forlì per 91-81, stasera alle 18 Cividale, sempre a Forlì, si giocherà gara 4. Pallanuoto in gara 2 di finale terzo posto dei playoff di serie A1 maschile, alla Bruno Bianchi la squadra alabardata è stata battuta dal Savona per 7-11. La Pallanuoto Trieste chiude così al quarto posto. In gara 2 di semifinale scudetto del campionato di Serie 1 femminile, sempre la Bruno Bianchi, le Orchette alabardate sono state superate dall'Orizzonte Catania per 7-11. Rassegna stampa triestina, festa salvezza, la gioia dei 6.500 tifosi al Rocco e la soddisfazione per la lunga rimonta della squadra di Tesser. È il titolo con cui apre oggi il piccolo con foto centrale del pubblico e dei calciatori in festa. In basso un richiamo sulla verifica di maggioranza, regione, la resa dei conti, vertice nel centrodestra, le tensioni tra Lega e Fratelli d'Italia dopo le dichiarazioni del ministro Ciriani. A questo il giornale poi dedica le pagine 2 e 3 di primo piano. Sapore di mare e di estate nell'apertura della foliazione sulla città, musica, giochi e animali, il galateo dei bagnanti fissa le regole e i divieti. Entra in vigore l'ordinanza che disciplina i comportamenti da tenere sul litorale. A Barcola proibita anche la pubblicità. Provvedimenti validi fino al 30 settembre. Altro articolo, gli stabilimenti balneari tutti operativi dal 1 giugno, il Pedocin apre alle 7.30. La questione del terzo mandato apre entrambe le edizioni del Messaggero Veneto, che informano sul vertice oggi in programma tra i segretari di partito regionali e il presidente Fedriga. La fotonotizia dell'edizione di Udine dà conto dell'intitolazione di un'aula dell'Accademia di Belle Arti Tiepolo all'allieva Patrizia Cormos, deceduta nella piena del Natisone l'anno scorso, con gli amici Bianca Doros e Christian Molnar. Capocronaca interno dell'edizione di Udine, l'assestamento di bilancio deciso dalla Giunta Comunale per interventi che serviranno per parchi, asfaltature, biblioteche e strutture sportive. Anche l'edizione di Udine del Gazzettino apre con la crisi nella maggioranza della politica regionale il vertice di oggi, mentre la fotonotizia è dedicata agli aiuti in studio da parte del nuovo presidente della Fondazione Friuli, Bruno Malattia. Gorizia, cardiologi in fuga, destinazione snobbata dai vincitori del concorso per dirigenti. Pesa l'incertezza sulla terapia intensiva, titola così l'apertura dell'edizione del Friuli Orientale del Piccolo, mentre la foto centrale ritrae ragazzi che giocano a mosca cieca e Go Games, le gare senza confini. In prima c'è anche questo richiamo, vigili del fuoco, arrivano rinforzi, ma c'è il rebus degli alloggi. Andiamo subito all'interno del giornale, l'apertura del capoluogo, concorso per dirigenti cardiologi, snobbata la destinazione Gorizia, i 5 assunti scelgono Trieste. Fasiolo del PD dice paghiamo l'incertezza, prove di dialogo con Monfalcone. Ed ecco l'articolo sugli organici del comando provinciale dei pompieri, 27 vigili del fuoco in più, ma resta l'incognita alloggi, in arrivo i rinforzi attesi per far fronte al surplus di lavoro legato a Go 2025, la preoccupazione del sindacato Conapo che chiede di accelerare la concessione di 5 alloggi ATER. La fotonotizia dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto mostra l'inaugurazione della gronda est a Sacile, di cui vi abbiamo dato conto ieri. Il capocronaca interno informa sull'evento in calendario il 5 settembre, che sarà dedicato al titolo di capitale italiana della cultura. Da San Giorgio della Ricca in Velda, l'abbandono della presidenza del Circolo Agrario Friulano da parte di Paolo Pitaro dopo 25 anni di impegno. Dal Gazzettino di Pordenone, il degrado della pavimentazione della ciclabile e poi l'operazione chirurgica di una neoplasia a livello cardiaco eseguita da un robot nell'ospedale locale che ha consentito al paziente di essere dimesso nel tempo record di 3 giorni. Giorgio Vacchiano, docente di scienze dei sistemi arborei all'Università Statale di Milano, è inserito nella lista Nature fra gli 11 scienziati che lasciano il segno nella ricerca, interverrà sui legami invisibili che ci uniscono alle foreste e su quanto l'uomo sia immerso negli ecosistemi e che ci danno la vita. L'incontro a Sopra di Spilimbergo nel Palazzo Consiliare alle 11. Seconda edizione per il Gran Primo Motonautico Aquileia Grado, tappa del campionato italiano di Porto Torin Cup, in cui oltre 35 equipaggi si sfideranno in un percorso spettacolare. L'iniziativa coinvolge imbarcazioni di derivazione da diporto, monocarene e monomotore con scafo di lunghezza massima di 8 metri. Dopo la mattinata di prove libere a Grado, la gara avrà inizio alle 15 sul tracciato davanti alla diga Nazario Sauro. Questa edizione si conclude qui. L'assistenza tecnica è stata curata da Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. L'informazione regionale della RAI torna alla radio oggi col GR in onda alle 18.30. Non andrà infatti in onda il giornale radio delle 12.15 per la trasmissione della messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV. Orario normale delle 14 per il telegiornale su Rai 3. Tra poco va in onda Vita nei Campi. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Da Maria Spezia e da Antonio Cajazza, buona domenica e a risentirci.